la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, un saluto da Oscar Giannino qua in diretta dagli studi di Radio 24 di Milano, 16.33 primi 47 secondi, oggi questo venerdì 10 gennaio, tentiamo di fare un punto sulla vexata questione del prelievo immobiliare sulla casa, visto che dopo 8 mesi e mezzo di balletto al suono della canzone abroghiamo l'IMU prima casa, siamo riusciti a non avere ancora una soluzione chiara e definitiva davvero su innanzitutto quanto ancora alcuni milioni di italiani devono pagare entro gennaio in aggiunta all'IMU prima casa 2013. Stiamo parlando di quelli che risiedono negli oltre 2300 comuni che legittimamente, non essendo stati bloccati dal governo che nel frattempo diceva di voler abrogare l'IMU prima casa, ma in realtà è andato avanti fino alla legge di stabilità per dare le coperture, stabilire di preciso cosa abrogava e così via, quei comuni hanno alzato al massimo la sovraliquota e quindi in quei comuni alla fine il governo ha detto beh, noi non possiamo coprire tutto il rimborso che i comuni chiedono, quindi in quei 2300 comuni, attenzione, informatevi bene, voi dovrete pagare il 40% di quella sovraliquota e poi, come avrete, se siete stati molto pazienti, e vi faccio i miei complimenti, è ancora in dubbio se la somma delle diverse componenti della nuova imposta che nel 2014 scatta secondo il dispositivo della legge di stabilità in sostituzione dell'IMU più la tassa comunale sui rifiuti che c'era, e cioè la nuova IUC, si chiama così, composta dal residuo che resta vigente dell'IMU non abrogata, cioè quella sugli immobili di lusso, se prima casa a 1, a 8, a 9, più tutta quella sulle seconde case, più tutti i beni strumentali immobiliari d'impresa, tranne che quelli agricoli. A questa prima componente si sommano le due altre componenti, quelle della TARI, cioè dei rifiuti nuovi, dei servizi divisibili che dovreste pagare nel vostro comune in proporzione a quanto davvero utilizzate il servizio in base alla proporzione ovviamente anche del vostro immobile, e poi terza componente, la TASI, quella sui servizi indivisibili tipo l'illuminazione, che è anch'essa però una componente patrimoniale che quindi si aggiunge a quella dell'IMU non abrogata per le prime case, per cui è stata abrogata nel 2013. E come avete seguito in questi giorni c'è una vicenda ancora non aperta, perché le aliquote della TASI e della somma di TASI e IMU residua sono state ritoccate ulteriormente rispetto alla legge di stabilità, perché i comuni dicevano l'aliquota che avete fissato per dire ai contribuenti che la somma delle due componenti patrimoniali non sarà superiore alla vecchia IMU non copre quanto noi aspettavamo, visti i tagli che ci avete fatto nei trasferimenti, è stata ritoccata ulteriormente l'aliquota che può salire quindi per la TASI al 3,3 per mille, oppure può salire quella sugli altri immobili, non sulla prima casa, 3,3 per mille prima casa, quella sugli altri immobili all'11,4 per mille, purché questa aggiunta complessiva dello 0,8 per mille però ha due condizioni: può essere distribuita o tra prima casa o altre abitazioni, però deve essere destinata alle detrazioni, e i comuni continuano a dire che 1,5 miliardi non torna. Per esempio qui a Milano, al comune di Milano, c'è una fortissima protesta in corso, perché con quanto ha stabilito ancora due giorni fa il governo ci sono 100 milioni che mancano nel bilancio 2014 del comune di Milano, che andrebbe approvato entro il 28 di febbraio. Allora, tutto questo per dire che a oggi abbiamo un'altra notizia. L'Istat ci ha informato che intanto siamo all'ottavo trimestre successivo di diminuzione del valore medio delle unità immobiliari abitative delle famiglie, meno 5,3% nel terzo trimestre su base annua rispetto al 2012. I prezzi continuano a scendere, come è a pezzi l'edilizia, ne abbiamo parlato tante volte. Allora, abbiamo deciso oggi, oltre a chiedervi di intervenire per dirci cosa pensate, cosa ne avete capito, il numero è 800 24 00 24, di fare un punto con il presidente di Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, che è qui con noi oggi pomeriggio. Buongiorno e grazie, presidente. Buongiorno, buongiorno. Allora, posso farle una domanda? Lei, la sua organizzazione ci ha dato, a noi poveri giornalisti che tentavamo di seguire di evoluzione in evoluzione in questi ultimi mesi dell'imposizione immobiliare, se davvero fosse corretto che la somma delle diverse componenti continuava a essere inferiore a quello che bisognava pagare nell'IMU nel 2013, diciamo, le tabelle fornite da Confedilizia direbbero tutt'altro. Allora, io innanzitutto le chiedo, con i conti che vi siete fatto alla luce di questa ultima sovraliquota dello 0,8 distribuibile nei Tasi prima casa o 11,4 per mille sulla seconda casa, alla fine nel 2014 quanto si paga di meno, uguale, di più secondo voi? Ma quel quadro che avevamo diffuso è pienamente valido e deve solo essere ritoccato all'insù per quanto si riferisce al gettito IMU Tasi considerato con l'aliquota massima, quindi praticamente ai 27 miliardi della tabella da noi diffusa deve essere aggiunta la somma che adesso lo Stato concorderà di riconoscere ai comuni in cambio delle detrazioni. A qual proposito devo dire che i comuni hanno cominciato parlando dicendo che volevano 1.300 milioni, poi qua e là hanno cominciato a far apparire la somma di 1.500 milioni e poi, per non negarsi nulla, adesso a aumento ottenuto nei limiti in cui lei ha spiegato, parlano che hanno necessità di 2 o di 2 miliardi, quindi a seconda che poi lo Stato conceda 1.500 milioni o 2 miliardi si passerà da 27 a 28.5 o 29. Allora, la fermo un secondo per far riflettere chi è a casa, perché sa poi chi è a casa non segue molto bene i numeri, quindi vorrei che ripetesse un secondo. La somma dell'IMU residuo, levati quei 3.8 miliardi nel 2013 sulla prima casa, sì, più la Tasi nel 2014 fa, ripeta un pochino? No, adesso qui sì, c'è il discorso della prima casa, comunque sarebbero 27 miliardi. 27, allora. 27, sul presupposto che i comuni applichino l'aliquota massima, che mi pare un'ipotesi collaudata. Collaudata. Allora, no, ma la fermo e gliel'ho fatto ripetere, perché facciamo riflettere bene chi è a casa. Cominciamo dal 2011. Nel 2011 c'era ancora l'ICI. L'ICI valeva 9,2 miliardi, poi c'erano le diverse imposte sui rifiuti, più o meno valevano 7 miliardi, 7 miliardi e qualche cosa. Allora, il totale dell'imposizione tra patrimoniale e servizi era intorno a 16 miliardi, un punto di PIL, tant'è che si diceva nel 2011 ma siamo sotto la media dei paesi europei. Non era del tutto vero, perché la media è 0,9, ma intanto la somma faceva nel 2011 9 più 7, 16. Nel 2012 parte il primo anno di applicazione dei moltiplicatori di Monti rispetto ai valori patrimoniali delle case, e quindi il gettito dell'IMU rispetto a quello di ICI 9,2 arriva a 23,7 miliardi, poi naturalmente restavano i 7 miliardi erotti in aggiunta della tassa sui rifiuti e quindi diventavano 30 miliardi. Nel 2013 scendiamo, i 23,7 miliardi dell'IMU scendono a 20 miliardi, per la prima casa sempre più i 7. Nel 2014, ripeto, la somma di IMU e Tasi, se va bene, farà 25 miliardi, potrebbe fare 27. Capite bene che 25 miliardi è più dei 23,8 che era la vecchia IMU, è di più, non di meno, e a questi vanno poi sommate le tasse sui rifiuti, che rispetto a 7 saranno almeno 9 miliardi. Ecco, quindi il complesso di queste diverse somme di queste diverse componenti dell'aliquota della tassazione immobiliare ci porterà a un punto di PIL di tassazione dove stavamo nel 2011 a quasi 2,5 punti, e questo in 3 anni. È così, presidente Fogliani? Certo, certo, mi pare ineccepibile. E allora perché però questi continuano a dire? Io ho sentito, c'era il ministro Lupi 2 sere fa a Porta, continuare a dire che invece il prelievo nel 2014 è inferiore al 2013 e nel 2013 è tutto stato esattamente rispettato dell'impegno con gli elettori. Lei che impressione ha? Non voglio polemizzare su Lupi solo, però la tesi del governo è si paga meno. No, no, ma tutti quanti, dal presidente a tutti gli altri, a tutti i portavoce, eccetera, perché io non credo lo facciano in malafede, ma lo fanno perché non sanno esattamente usare le parole correttamente. Per esempio, si parla sempre di seconde case e basta, per intendere forse, o comunque per nascondere che in più poi ci sono anche gli altri immobili, come invece lei correttamente ha specificato. Io credo che costoro, quando parlano di diminuzione delle imposte sulla casa, si riferiscono solo alla prima casa, dove è possibile che vi sia, ma è l'unica spiegazione che si può dare. Quindi può darsi che lo facciano così, per imprecisione, ad essere buoni, può darsi che lo facciano per perfidia, ad essere magari più realistici, anche secondo il famoso calambur che ci si prende, vero, a pensare male. Così, ci si prende. Fatto che secondo me loro si riferiscono solo alla prima casa. Va bene, si riferiscono solo alla prima casa, ripeto, capiterà che anche per la prima casa, però, in quei 2300 comuni, è documentato dalla stampa in questi giorni, ci sia chi deve con la sovraliquota e finirà per pagare più di quanto avesse pagato prima. Questo perché, ripeto, il governo non ha bloccato i comuni sulla sovraliquota. Se si fosse preso sul serio il governo, prendendo sul serio se stesso, avrebbe dovuto dire ai comuni: siccome la leviamo l'IMU sulla prima casa, voi quest'anno non potete fare la sovraliquota sulla prima casa. Invece il governo non lo ha fatto, perché la verità è che il governo fino a novembre non aveva davvero deciso quanto e come levava sulla prima casa, perché stava assaggiando le diverse componenti interne della propria maggioranza. C'era chi si era impegnato con gli elettori, sappiamo chi, il nuovo centrodestra e Forza Italia, ha aspettato che si rompesse la maggioranza e dopodiché ha deciso, quando ha visto che c'era una componente, quella di Alfano, che restava mentre l'altra se ne andava, e allora ha onorato fino alla fine anche la seconda rata sulla prima casa. Questo è il motivo per cui i comuni non sono stati bloccati e per cui alcuni milioni di italiani continueranno a pagare, non sanno ancora quando e come, ma entro il 24 gennaio dovranno farlo. Questa è la miserabile, a mio giudizio, non lo dice Forza Fogliani, lo dico io, storia che ci è stata proposta in questi 9 mesi. Adesso abbiamo l'informazione stradale, poi torniamo col presidente di Confedilizia. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta a 16:47:24. Come prevedevo, molti ascoltatori ci mandano sms dicendo: ci siamo persi nei numeri delle spiegazioni. La cosa che posso dire loro, poiché la mia trasmissione è molto breve, come sapete, è che se andate sul sito di Confedilizia trovate 2 diverse tabelle con il progresso del totale delle imposte sugli immobili 2011, 2012, 2013, 2014 con le sovraliquote, e troverete il riscontro di quello che vi abbiamo detto su un'imposizione che continua a crescere, non che diminuisce. Poi chi avesse più tempo e più voglia può seguire su Sole 24 Ore ogni giorno gli aggiornamenti della vicenda. Non vi spaventate a dire che la cosa è tecnicamente complicata, perché non ne capisce nemmeno chi è tecnico davvero della materia. Il Sole 24 Ore calcolò il 12 dicembre scorso che negli oltre 8.000 comuni italiani, tra per la vecchia IMU, quindi tra prima e seconda case, differenziazioni di criteri, di sovraliquota, di interventi sul reddito dei proprietari e così via, risultassero vigenti nel 2013, negli oltre 8.000 comuni italiani, oltre 104.000 aliquote diverse. 104.000, e non è una boutade, è un conto che è stato fatto dal Sole 24 Ore 12 di dicembre, lo trovate anche oggi ripreso sul Sole 24 Ore. Un paese in cui l'imposizione immobiliare ha per una sola imposta, l'IMU, 104.000 aliquote diverse, è uno schifo! Lo posso dire? Lo dico, e dite quello che volete, non sono laureato, è uno schifo lo stesso, 104.000 aliquote, capite? E adesso il modo nel quale la politica dice che si pagherà di meno, mentre da quello che capisce chi se ne occupa si pagherà di più, è un altro punto gaudioso del mistero italiano. Abbiamo alcune telefonate, cominciamo con Fabio da Ferrara. Prego Fabio. Buonasera Giannino, buonasera a tutti. Solo due considerazioni. La prima di carattere generale, cioè che comunque ci prendono per i fondelli da anni e quindi che paghiamo di più, paghiamo di meno rispetto al 2012, 2013, a me non importa qui niente, tanto comunque a prescindere non ci credo. La seconda, per quanto riguarda invece personalmente, non mi metto neanche lì a andare sul sito del Sole 24 Ore, vostro sito, cercare di capire quello che lei cortesemente cerca di spiegare, perché tanto non ci capire niente, come giustamente dice lei, non ci capisco niente neanche i tecnici, quindi non spendo in commercialista per poi magari vedere come... Ah, parla da contribuente, perché... lei non spende come col commercialista, e come farà? No, io non pago la tassa, quando mi arriverà a casa Equitalia fanno il conto loro per me, che sicuramente anche come di interessi eccetera spendo meno che prendere un commercialista per farmi fare i conti. E questo sono stufo. E questo è un punto delicato, Fabio, che lei giustamente sottolinea. Se lo Stato dovesse dirci lui quanto paghiamo con imposte e aliquote così complicate, stia sicuro che a quel punto la farebbero molto più semplice sulle aliquote, se dovessero loro mandarci una cartolina dicendo secondo i nostri conti è così, se non sei d'accordo facci sapere. E invece questo naturalmente non avverrà, perché quando lei si troverà la cartella ci saranno gli interessi di mora eccetera eccetera eccetera. Stia sicuro che se dovesse essere lo Stato a fare il conto, le aliquote diventerebbero molto più snelle e molto più chiare. Sentiamo ancora Sante che ci chiama da Roma. Prego Sante. Buonasera Oscar. Prego. Sono da Roma, sono un artigiano, sì. Sono. Io ho mia figlia, ha un mutuo trentennale a 717 euro al mese. Mi sembra giusto pagare l'IMU su una casa dove non è mia la casa, è della banca, perché non te le fai pagare dalle banche, caro Giannino? Capito? perché se non paghi una, perché non ce la fanno a pagarle, ti chiama, dice signorina, dice venga signora, venga, che lei non ha pagato una rata, due rate. Io dico, Giannino, mi puoi spiegare cosa hanno fatto in Spagna ai banchieri, cosa gli hanno fatto? Mi è giunta voce che hanno aiutato la gente dove non può pagare. In Spagna c'è stato un intervento straordinario, in teoria sembrava fino a 100 miliardi, poi 50 miliardi messi a disposizione di aiuti europei contrattati per il sistema bancario che era finito per aria per i valori immobiliari, poi ne hanno utilizzati 42 miliardi. L'intervento europeo e il programma contrattato ha permesso delle soglie di messa in sicurezza rispetto ai mutuatari che erano finiti nel disastro. Ecco, questo che in Italia ovviamente è stato... non è stato possibile farlo. La mia opinione, e poi ridò la parola a Sforza Fogliani, è che nel nostro paese noi abbiamo per decenni perseguito la linea di spiegare agli italiani ma investite sul mattone anche parte molto elevate del vostro reddito disponibile, prendete mutui eccetera eccetera, le banche su questo ci hanno guadagnato molto facilmente, l'idea era che il valore sarebbe sempre cresciuto anche con cicli dell'economia bassi, come avete visto in questi anni di crisi non è affatto così, perché oltre certi punti di caduta cade anche il valore medio dell'unità immobiliare, il vostro patrimonio vale di meno. E poi lo Stato a quel punto, dopo che le avete comprate le prime e le seconde, dicendo ma è la cosa più sicura per il tuo reddito, ha iniziato a dire, caro mio, ma si paga troppo poco qua di imposte patrimoniali, perché lo Stato assetato ha iniziato a dire, ti avevo incoraggiato io a prenderlo, ma adesso sai che c'è, me ne piglio un bel pezzo del tuo valore patrimoniale, hai poco reddito, mi dispiace per te, ci pensino i comuni adesso a fare le detrazioni. Naturalmente io sono molto cattivo, però Sforza Fogliani cosa pensa di questo drastico cambio che c'è stato in questi due ultimi anni, da un punto a due punti e mezzo di PIL sull'imposizione immobiliare? Ma sono d'accordo con quello che lei ha detto, il tradimento è stato due volte, prima di tutto nel cambiare improvvisamente le carte in tavola sul fatto di prima stimolare e poi punire dopo che si erano seguite sostanzialmente le indicazioni della politica, ma il secondo tradimento più grave ancora e da paese veramente incivile, è che qua si tassano gli immobili secondo il loro valore e non secondo il reddito. E quindi siamo fuori dalla capacità contributiva costituzionale. E soprattutto la cosa è ancora più indegna in questo momento quando si pretende di colpire una ricchezza che non c'è più, perché la ricchezza c'è quando è realizzabile sul mercato. In questo momento gli immobili non hanno realizzabilità, salvo qualche caso specifico di immobili speciali con un interesse particolare, eccetera, non hanno una realizzabilità immediata sul mercato, quindi non è ricchezza, ma anzi è povertà, e qualcheduno fa in modo che nessuno dei parenti eccetera lasci a lui un immobile, un appartamento, anche perché viene ad essere un debito. Quindi tassare un valore oggi è doppiamente, pervicacemente incivile, sia perché si dovrebbe sempre tassare esclusivamente il reddito che un bene produce. Come è costituzionalmente corretto, sancito con chiarezza in Germania e tra le righe e comunque così interpretato dalla Corte Costituzionale in Italia. È incivile, a parte il fatto che poi addirittura si colpiscono anche gli immobili che non producono nessun reddito e si colpisce addirittura, l'ultima barbarie, lo sfitto involontario, perché oggi si è ripristinata l'IRPEF sugli immobili che non vengono affittati perché non c'è nessuno che li cerca, neanche al fitto minimo che assicura dal fatto di non essere perseguiti dall'Agenzia delle Entrate, perché esatto, nessuno ricorda mai che vi è una disposizione in virtù della quale si presume che vi sia quantomeno parte del canone in nero se il canone ufficiale pattuito sul contratto o comunque verbalmente, adesso non è più possibile verbalmente, ma comunque pattuito sul contratto sia inferiore al 10% di quello che risulta facendo i dovuti calcoli sulla rendita catastale. Quindi lo Stato per una parte impedisce di affittare anche al di sotto di un certo limite gli immobili e dall'altro punisce perché gli immobili non sono affittati. Non sono affittati. Quindi siamo veramente alla bisognerebbe dire alla comica, ma purtroppo siamo alla tragedia, alla tragedia. E mi lasci dire anche, Presidente Sforza Fogliani, che siccome sull'imposizione immobiliare ci si è scatenati, cosa dire poi di uno Stato che ha messo l'imposta sui valori immobiliari esteri, per cui chi ha una casa in altri paesi paga comunque allo Stato italiano? Io la considero una cosa da Corte Costituzionale, invece è passata anche questa. Quindi la mia idea, lo dico a chi è a casa in questo momento, dice: ma voi siete contrari a tutte le imposte patrimoniali? No, il problema è che quando si interviene in un sistema fiscale bisogna sapere che bisogna i pedali diversi. Se uno crede che bisogna mettere più imposte patrimoniali, mi deve poi a quel punto levare imposte sul reddito indirette. Quello che non si può fare è alzare al massimo le patrimoniali triplicandole in due anni, alzare al massimo l'aliquota marginale dell'imposta sulle persone fisiche e sul reddito delle imprese, alzare al massimo l'IVA. Quello che è successo in questi anni è tutto sbagliato. Ecco perché siamo in ginocchio. Grazie al presidente Fogliani. Continuate su Radio 24, l'appuntamento con me a lunedì.